questi 8 giorni con l'omaggio a una delle coppie più straordinarie del cinema sonoro, quella di Hitchcock e Herman. Ci serve per raccontare una cosa che c'era con Vittorio De Sica. Quando gli chiedevano che cosa fa l'una e che cosa fa l'altra, rispondeva: ma noi siamo come il cappuccino, c'è il latte e c'è il caffè, ma non si sa che cosa fa il latte e che cosa fa il caffè, però c'è il cappuccino.